Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone. Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po', e siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Eccomi, sono arrivata, buongiorno, buon sabato da Nicoletta, la vostra salutare ossessione quotidiana. Siamo all'ultima puntata dell'anno di Obiettivo Salute Weekend. È una puntata in cui staremo insieme fino alle 13 e che sarà anche l'occasione per ripercorrere i temi affrontati fino a questo momento dell'anno. D'altronde si sa che alla fine dell'anno si tirano le somme del lavoro fatto, e allora anche noi andiamo a riascoltare i temi che vi sono piaciuti di più, quelli che vi hanno stuzzicato, incuriosito. Buon ascolto! 2017 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Jeffrey C. Hall, Michael Rosbach and Michael W. Young. In campo medico questa è sicuramente una delle notizie del 2017, l'assegnazione del Nobel per la medicina ai tre scienziati statunitensi, Jeffrey Hall, Michael Rosbach e Michael Young, che hanno identificato i meccanismi molecolari che controllano i ritmi circadiani, meccanismi che sincronizzano vari aspetti della nostra vita e sono anche alla base di molte funzioni fisiologiche, come ad esempio, ne cito una, il ritmo sonno-veglia. Tante volte abbiamo parlato di cronotipi, di gufi, di allodole, ma torniamo al nostro trio e alla ricerca. Sulla base dei risultati degli studi sino ad ora effettuati, si potrebbe dire finché c'è ritmo c'è salute. Il nostro stato di salute è infatti condizionato dal corretto funzionamento del nostro orologio interno, anche se dovrei parlare al plurale perché tutte le cellule ne hanno uno. Quindi abbiamo tanti orologi e tutti devono girare alla stessa velocità, essere sincroni, dato che ormai molti studi lo dimostrano, il mancato rispetto dei ritmi ci rende più vulnerabili, o meglio aumenta la probabilità di ammalarci. Quindi restiamo in contatto, sincronizziamoci, cerchiamo di non perdere colpi e soprattutto facciamo il possibile per non perderci i consigli del professor Roberto Manfredini, direttore del Dipartimento di Scienze Mediche all'Università di Ferrara ed esperto di cronobiologia. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io posso dirle, professore, che tutto sembra andare bene e che qui accanto a me, di fronte a me, c'è il professor Claudio Borghi, che lei conosce bene, direttore dell'Unità Operativa di Medicina Interna al Sant'Orsola Malpighi di Bologna e presidente della Fondazione Società Italiana dell'Ipertensione. Buongiorno anche a lei, professor buongiorno, Borghi. Buongiorno, care, buongiorno a Roberto Manfredini. Professore, dopo tante puntate che abbiamo fatto insieme sulla cronobiologia, se andate a vedere sull'archivio, già dai tempi di Essere Benessere ne parlavamo, la cronobiologia che è proprio la scienza che studia i ritmi dell'orologio biologico, ho capito che esistono momenti favorevoli e sfavorevoli nella nostra giornata. D'altronde l'organismo umano, professor Manfredini, lei mi insegna che è estremamente complesso e molte funzioni si reggono un po' su degli equilibri delicati. Assolutamente vero. Intanto, come momento della giornata, il momento della sua trasmissione e la presenza del grande amico e oltre che bravissimo collega Claudio rende questo sicuramente un momento particolarmente favorevole. Magnifico, quindi, e parte anche buono ascoltarmi. Assolutamente. Poi proprio quello che diceva lei prima, sulla base di questi meccanismi molto complessi a livello di molecola, di gene, che i colleghi americani, io personalmente ho conosciuto Mike Young, e hanno praticamente consentito di decriptare una conoscenza che tutto sommato era abbastanza intuitiva da tanti anni per chi studia questo argomento. Il nostro organismo non è mai fermo, ogni cellula del nostro organismo non è mai ferma, la costanza delle funzioni non è data dalla fissità, bensì da un ritmo con un massimo e un minimo, come diceva giustamente lei, che dobbiamo cercare di mantenere entro certi limiti per ogni cellula, per ogni organo, per ogni apparato controllati da un orologio interno in tune, quindi praticamente sincronizzato col nostro ambiente esterno, interno ed esterno. Professore Borghi, tra le varie funzioni, sono tante, regolate dai nostri orologi biologici, c'è anche la pressione che ha i suoi momenti su e i suoi momenti giù, non è sempre uguale. Assolutamente, credo che la pressione, fra l'altro, sia stato uno dei primi esempi macroscopici di queste oscillazioni circadiane, di questo orologio biologico che caratterizza le cellule. La pressione ha un andamento diverso nell'arco della giornata, è significativamente più alta quando noi siamo attivi, si riduce normalmente in condizioni che noi diciamo fisiologiche durante il sonno, ma fondamentalmente ha un andamento specifico che è regolato anche in questo caso dalla cronobiologia e comunque dagli orologi biologici che stanno all'interno delle cellule e che la rendono adeguata a tutte le restanti funzioni dell'organismo. Siete assolutamente sincroni, lei e il professor Manfredini. Ma da tanto tempo lo siamo e di questo siamo entrambi onorati. Professor Manfredini, a proposito di cronobiologia, la cronobiologia, proprio studiando i ritmi che regolano le nostre funzioni, è riuscita anche a capire il momento ideale anche per la somministrazione dei farmaci. Si parla infatti di cronoterapia. Per i nostri ascoltatori che stanno assumendo una terapia per il controllo della pressione, poi nel corso della trasmissione il professor Borghi ci darà anche gli aggiornamenti, daremo i numeri, cercheremo di capire come evitare di diventare ipertesi, che cosa fare, ma per chi ha già ricevuto una diagnosi e quindi sta seguendo una terapia, c'è un momento ideale per assumere la pastiglietta o le pastigliette, perché solitamente la terapia si compone di più farmaci? Certo, diciamo che normalmente siamo abituati tutti ad assumere la terapia, anche quella dell'ipertensione, al mattino, e avendo a disposizione ormai molti farmaci che sono di durata tale da garantire la copertura delle 24 ore intere, questo in linea generale va bene, ricordando che la mattina successiva è comunque il momento in cui è più elevato così il rischio potenziale di eventi cardiovascolari. Come diceva il professore prima, alcune persone, la maggior parte delle persone durante la notte hanno un calo fisiologico della pressione, ma alcune no. Esiste una categoria di ipertesi, di cui forse parlerà Claudio in seguito, che non concedono al cuore questo riposo nell'arco delle ore notturne, mantengono valori pressori più alti della norma anche di notte. In una serie di categorie di pazienti che possono avere questo aspetto, spostare anche proprio dal punto di vista dell'orologio almeno uno dei farmaci che si assume alla sera, su indicazione naturalmente sempre del medico e delle sue condizioni, potrebbe essere di giovamento. Professore, grazie, noi la salutiamo, la ringraziamo per essere stato con noi, mi tengo qua chiuso in studio con me il professor Borghi. Professor Manfredini, la ringrazio, spero di sentirla presto. Un caro saluto a Claudio e arrivederci e buona trasmissione. Ciao. Adesso però, amici, facciamo un attimo di pausa, poi vi aspetto di nuovo qui per continuare a riascoltare insieme il meglio di Obiettivo Salute Weekend. Vi aspetto, mi raccomando, tornate. Mecal.com, l'eccellenza che funziona nelle macchine per la lavorazione dell'alluminio. Vi presenta gennaio 2017. Scosse di terremoto, neve, gelo in centro Italia. I soccorritori hanno raggiunto l'hotel Rigopiano isolato dalla neve. Maggio 2017. I temi di questa giornata economico-finanziaria, se dovessero essere altri aggiornamenti da San Pietroburgo, ve li daremo in diretta come abbiamo fatto dalle 14 in poi. Per il momento. Luglio 2017. Paolo Villaggio, scomparso il 3 luglio scorso, che è stato un grandissimo protagonista. Ottobre 2017. Sai cosa mi piace della vicenda della Catalogna? Caro David, mi piace il fatto che si stanno scannando sul nulla. Cioè, dovremmo godere di questa situazione. Io infatti godo come un pazzo, si scannassero tra di loro. Rivoluzioni, gente in piazza, fuoco, fiamme, Catalogna, confini blindati. Tu sei un creatore di casino. Stupendo. Anche quest'anno vi abbiamo raccontato il mondo. Tutti i giorni. E continueremo a farlo nel 2018. Con la nostra serietà, autorevolezza, passione e leggerezza. Perché il mondo, oltre ad essere vissuto, va soprattutto capito. buone feste da Radio 24. Obiettivo Salute Weekend. Come promesso, eccoci tornati insieme in questa sorta di diario di Obiettivo Salute Weekend del 2017. Stiamo riascoltando alcuni dei temi che abbiamo affrontato nel corso della stagione. Siamo partiti dal Nobel della Medicina, assegnato agli studi sui meccanismi dell'orologio biologico, per arrivare a parlare di pressione. Anche la pressione ha i suoi momenti e le sue ore. E a questo proposito, c'è un momento ideale per misurarla? La parola al nostro esperto. Hai qualche chilo in più che si è affezionato al tuo giro vita? Non hai tempo di dedicarti ad una attività fisica regolare? Fai fatica ad addormentarti? E poi dormi poco? Hai una cefalea inspiegabile? Ogni tanto ti prende una strana agitazione? Ti sanguina il naso? Fai fatica a carburare al mattino? Ti senti spossato e privo di forze? Hai in famiglia ipertesi? Se avete risposto sì ad almeno una di queste domande, io direi di fermarvi con noi e prima di porre le mie domande, spazio agli ascoltatori. Vado subito a Beppe da Arezzo, che ci scrive: 58 anni, sovrappeso, gran fumatore, 90 di minima, 150 di massima, 150 battiti. La domanda è: fra quanto scoppio? Dunque, io direi mai, non dovrebbe scoppiare mai, perché sono tutte cose che sono rimediabili, quindi io potrei stabilire una data se il destino fosse ineluttabile, quello che il nostro ascoltatore racconta fosse una cosa che non può essere modificata, ma tutto quello che lui descrive può essere modificato. Per cui certamente non è una situazione vantaggiosa, altrettanto certamente una buona riduzione di peso, un controllo adeguato dei valori di pressione arteriosa, l'abolizione del fumo di sigaretta e un'indagine approfondita su questo valore di frequenza cardiaca, che è sicuramente al di fuori del normale e che prelude la possibilità che sottostante ci sia un'aritmia, molto probabilmente potrebbe fare ritornare indietro l'orologio biologico di questo paziente, che al punto attuale si è avviato per una strada impervia. Anche perché ha un'età straordinaria, 58 anni, certo. Gli studi ci dicono che investire in salute in quella fascia d'età compresa, certo, tra i 40 e i 60 anni è un investimento che rende doppio, spalanca, certo, le porte della longevità. Beppe mi dà uno spunto. Parliamo anche del fumo, certo, che è importante. Allora, bisogna smettere, però anche le persone che stanno assumendo una terapia antipertensiva devono fare molta attenzione, perché il fumo di sigaretta vanifica un po' gli, certo, effetti della, certo, terapia, certo, quindi il abbiamo fumo. Abbiamo eventuali effetti collaterali che ogni farmaco porta con sé e non ne abbiamo tutti i benefici. Mi aiuta? Il fumo di sigaretta dovrebbe essere cancellato in assoluto, perché entra come fattore patogenetico, e quando intendiamo patogenetico intendiamo qualcosa che può causare, e in questo caso può causare una malattia, fondamentalmente per tutti i principali gruppi di malattie. Quindi non è il problema delle malattie cardiovascolari, non esiste una malattia nello scenario clinico che non sia influenzata negativamente dal fumo. Quindi il primo punto è che dobbiamo toglierlo di mezzo prima possibile, o non intraprendere mai l'abitudine al fumo, è un punto centrale. Naturalmente, poiché il fumo danneggia prima di tutto l'endotelio vascolare, che è quella magica superficie dei nostri vasi che permette a loro di dilatarsi e di restringersi, di svolgere quella funzione fondamentale per cui fanno arrivare sangue ai tessuti, è chiaro che il fumo ha questa capacità non solo di generare un aumento dei valori di pressione, ma anche di opporsi al trattamento antipertensivo. E quindi fondamentalmente, per tutti questi motivi, soprattutto se i valori di pressione sono alti e soprattutto se è in terapia antipertensiva, il fumo deve scomparire. Professor Borghi, torniamo ai nostri orologi. Cosa succede quando impazziscono, e soprattutto come facciamo a rendercene conto, dato che voi ci avete detto che questi orologi biologici condizionano anche in parte la nostra pressione? Certo, la condizionano moltissimo. Beh, quello che succede è esattamente quello a cui Roberto Manfredini faceva riferimento in precedenza. La nostra pressione ha normalmente quello che si chiama un ritmo circadiano, per cui è più alta durante il giorno, in particolare al mattino, tende a ridursi durante la giornata, ad aumentare di nuovo nel tardo pomeriggio e a diminuire la notte durante il sonno. Quando questi orologi biologici impazziscono, questi ritmi possono completamente ribaltarsi, per cui la pressione notturna può non diminuire o in alcuni casi, quelli che si chiamano extreme reverse dippers, la pressione notturna può addirittura essere più alta della pressione giornaliera. Questa è la situazione in cui gli orologi hanno un andamento del tutto caotico, hanno perso qualsiasi capacità di controllare il meccanismo di fondo. Il problema fondamentale è che, essendo questa una situazione completamente opposta a quella alla quale l'organismo si dovrebbe trovare a lavorare, fa sì che questo aumento della pressione notturna, questa mancata riduzione, generi un sovraccarico di lavoro sul cuore, un sovraccarico di lavoro sulle arterie, un sovraccarico di lavoro sul nostro cervello, il che naturalmente è con maggiore probabilità responsabile di danni a distanza. Quindi l'impazzimento degli orologi biologici ha nella pressione una delle sue misure più evidenti. Professore, vogliamo dare i numeri? Non è che avete ulteriormente o pensate di abbassare i valori? No, direi sostanzialmente no. Probabilmente le prossime linee guida credo che riporteranno come raccomandazione ulteriore un controllo della pressione massima al di sotto di 130 mm di mercurio, che era qualche cosa che era già stato proposto nelle linee guida precedenti, ma che oggi è stato ulteriormente confermato. Per il resto non ci sono grandi novità e i valori di normalità che abbiamo descritto sono gli stessi. In questa ottica vorrei però rammentare, lei lo sa molto bene, che ogni aggiustamento dei valori di pressione arteriosa deriva da un accumulo sempre maggiore di informazioni finalizzate alla prevenzione delle complicanze, quindi vanno a favore del paziente. Non è semplicemente una scelta arbitraria delle società scientifiche, le quali decidono dove porre l'asticella della normalità, perché alcune volte questo viene insinuato ma non corrisponde affatto alla realtà dei fatti. Peso 53 kg, altezza 1,67, pressione 130-80. Ci perfetto, piace, perfetto, no? Sto benino, ma ho sempre agitazione. Che fare? Beh, fondamentalmente credo che l'agitazione di fondo, diciamo, o l'ansia che viene quasi sempre espressa dai pazienti come agitazione, può essere un disturbo primitivo e quindi verosimilmente vale la pena forse di parlare con il proprio medico per vedere se la situazione è basata sul problema ansioso. Una cosa che io farei in questo caso, anche se gli altri parametri non vanno in quella direzione, è fare una valutazione degli ormoni tiroidei, perché una delle cose più comuni dell'aumento degli ormoni tiroidei, anche modesti, è dare questa sensazione di agitazione, questo senso di inquietudine, per cui prima di attribuire alla psiche la possibilità di generare ansia, credo che una valutazione degli ormoni tiroidei possa essere appropriata. Professore, diamo qualche consiglio flash. Partiamo dai consigli, come sempre, di prevenzione, perché non è detto che noi dobbiamo diventare ipertesi, invece molte persone pensano che arrivate a una certa età, dai 40, dai 50 in più, la pressione magicamente diventi alta. Insomma, non è un regalo degli anni, possono venirci le rughe, tutto qua, ma la pressione, certo, no, idealmente potrebbe essere perfetta fino a 100 e fischia anni. Allora, giochiamo d'anticipo, rivolgiamoci alle persone che vogliono evitare di poi curare l'ipertensione. Cerchiamo di mantenerla a livelli ottimali, certo, che lei ha detto 130-80. Che si fa? Il peso? Il peso sicuramente è fondamentale. Ci sono alcuni elementi che sono straordinariamente correlati con il rischio di ipertensione. Il peso corporeo, quindi controllare il sovrappeso, e naturalmente l'obesità diventa un elemento centrale. L'altro aspetto importante è fare attività fisica. L'attività fisica è una condizione che fisiologicamente tiene elastiche le pareti delle nostre arterie, e poiché l'ipertensione è generata dal fenomeno opposto, quindi dall'irrigidimento della parete arteriosa, dalla capacità di adattarsi alle varie situazioni, è chiaro che quanto più noi stimoliamo fisiologicamente questo meccanismo, tanto più la pressione è controllata. Cioè, noi non dobbiamo dimenticare che lo stesso meccanismo sul quale agiscono i farmaci antipertensivi, che spesso è la stimolazione dell'ossido nitrico, fra l'altro scoperta che ha generato un altro Nobel qualche tempo fa, e può essere ottenuta allo stesso identico modo con l'esercizio fisico, e quindi fondamentalmente questa è la cosa importante, e ridurre senza cancellare dalla dieta, senza essere troppo draconiani, il sale. Ecco, un po' di riduzione di sale ci vuole, anche perché la nostra dieta è un po' salatina. Professor Borghi, se però inizio a assumere una terapia, così riassumo tante domande che stanno arrivando, la terapia è per sempre o quando riesco ad ottenere il valore ottimale posso interromperla? Come